Il punto di Stefano Folli. Chi segue le cronache dal Parlamento si sarà fatto l'idea, in fondo non sbagliata, che passano solo i provvedimenti imposti attraverso il voto di fiducia, come è accaduto ieri al Senato in mezzo al caos dei grillini con il decreto sul lavoro. Il resto, soprattutto se si tratta di temi ambiziosi come le riforme che toccano la Costituzione, si arena in un groviglio inestricabile di veti e controveti. È non da oggi la condizione italiana, quindi nessuna meraviglia. Il problema è che in queste settimane tutto viene aggravato dalla campagna elettorale in corso, una campagna in cui la posta in gioco è molto alta perché determinerà i veri rapporti di forza nel Paese. Stabilirà cioè chi comanda politicamente in Italia, se Renzi o Grillo, e se Berlusconi riesce a mantenere una residua influenza e un qualche potere di interdizione. Come si può pensare che in questo clima si possa riformare qualcosa? Tutto diventa messaggio elettorale. Parte di un braccio di ferro in corso. Solo dopo il 25 maggio torneremo alla realtà e forse, ma non è sicuro, alle cose concrete.